Resto Radio Convento, per raccontarsi, per raccontare. E ci siamo domenica sera in compagnia di tanti ospiti, vero Carlone? Vero Carlone? Ci bene, siamo. Bene! Sì. Sembra il salotto quest'oggi. Stasera sì. Abbiamo detto che c'era un bicchierino per due e sono venuti in otto. Quello mi ha dato fastidio perché tra l'altro in mezzo a loro ci sono anche uomini. Vabbè. Questo passa il convento. Li teniamo subito il primo ospite, Carlone. Sì, sembra formazione. Allora, in porta chi c'è quest'oggi? Claudio, buongiorno, ben alzato. Buongiorno a voi. Sì, tu lo conosci, Sandrino Claudio? Claudio è famosissimo al convento, eh? Sì, sì, è famoso per le sue giacche e i suoi crusetti particolari, giusto? Stile mio. Stile tuo. Mettiamola personale. Così. Sì. Che stile Claudio, ecco, sto facendo stile Claudio. Sì, sì. Fammi lo stile invece a farfalla. Fagianella. Ecco, sì. Benvenuti al programma nostro che l'abbiamo inventato stamattina. Sì, esatto. Un bicchiere per due. Claudio, cosa ci racconti proprio brevemente? Oddio, io mi aspettavo qualche bicchiere in più, veramente. Uno per due è un po' scarsino. Benissimo, passiamo all'altro concorrente. Avanti un altro. Allora, stasera cosa ti prevedi? Cioè, cosa pensi di ottenere stasera? Una serata divertente e piacevole, con dell'ottima musica, sì, andare e della a Cuba. Buona compagnia. Andare a Cuba? Magari più. Sta leggendo, Carlone. Io ho visto, se l'era preparata da casa, io l'ho visto. Tra l'altro c'ha dietro il gobbo di Notre Dame che li suggerisce. Ci sono tutti i nostri amici, perché effettivamente il convento è una famiglia, no? È una grande famiglia. Allargata. La mammina chi è? Ce l'abbiamo? Sì, è di là, ok. Mattone, non c'è mammina? No, sto facendo il corso di cucito perché deve imparare, insomma, le cose, perché dopo avendo tanti figli. Ecco, Claudio, tu da dove arrivi? Io arrivo da Rovato. Rovato che è vicinissimo. Sì, mezz'oretta circa di strada, via. Allora, spiega dove è Rovato, perché uno che ci ascolta dalla Puglia non sa dove è Rovato. Allora, Rovato è la capitale della Franciacorta. Benissimo. Dove? Quindi lì si beve benissimo. Assai. Siamo un bel paesotto, anche se adesso lo chiamano città. Ma chi si crede di essere, deve arrivare senza bottiglia. Esatto, cioè viene a fare un bicchierino per due e non porta neanche la bottiglia lui. Cioè, bicchieri ce ne abbiamo. Pazzesco. Allora, sì, prossima volta. Te lo prometto che la porto, vuota ma la porto. Bene, sei fidanzato, Claudio? Sei fidanzato? Assolutamente no, in cerca di fidanzata. Sì. Vogliamo dare le misure? Lasciamo che siano da scoprire. Questo mi piace. Questa è bella, è una tecnica sua, che l'ha usata più volte. Io l'ho già sentito altre volte. Tante volte. Va bene, allora. No io comment. Direi. Cosa diciamo? Salutiamo Claudio, gli auguriamo una bellissima serata e tanti limoni. Grazie. E direi avanti. Accetto. Un altro. Buona serata a tutti. Abbiamo tre dispersi. Diciamo che la temperatura è altissima. Siamo in tanti, è molto hot. Ecco qua. Adesso io direi di passare. Una donna. Ecco. Pronto? Sì. Pronto? Pronto? Sì. Pronto? Sì, chi c'è? Ivana, puoi avvicinarti di più al microfono, grazie. Attenzione, quella se lo mangia, Sì, allora. Domenica scorsa mi ha criticato. Ah sì? Come mai? Sì. Perché mi sua musica era un pochino spenta. Era spenta? Sì, spenta. C'era il robot. E poi era scappato il DJ, non c'era più. Mi stavano cercando. E gli scappava la pipì? No, era scappato lui, non il DJ. Il DJ era scappato. Ah, il DJ? Su Rete 4 c'era chi ha visto DJ Carlone. Esatto. E se non poteva perdere la puntata sua preferita. Mamma mia. Ecco, abbiamo il signore, questo vuole lavare il vetro. Scusa, ti sembra l'orario di lavare il vetro? Non ho capito. Esatto. Se hai niente da fare a casa, c'è no qualcuno da pulire. Senti Ivana, sei stupenda. Mi sembra di aver capito che ti piacciono gli anni 70, vero? Sì, molto. 70. Dammi un tuo gruppo che ti piace maggiormente. Bellissimo. Perfetto, quello lì. Quello lì. Il gruppo immaginario. Sì, a lei piace molto i chic, le freak, vero? Sì, tutte le cose finiscono per ic, praticamente. Ic. I dick. Alan Persson. No, ma dick, Ivana, dick, qual è il tuo gruppo che non ce l'hai detto? No. Ivana, ce la canti una canzone in diretta tu? Per così. Del cielo, no? Ma anche se sei stonato non importa, poi noi la cambiamo, vero? Facciamo dei tagli. Dai, che ti aiutiamo noi che siamo bravissimi. Noi diamo il tempo. Vai. Cosa vuoi cantare? Bella, mamma mia. Questo è il famoso tempo di finché la barca va, Non ho idea di cosa cantare. Avevi troppo bassi gli alti e troppo alti i bassi. No, sono molto timida. Allora, Ivana, sei fidanzata? No. No. Ho cosa aspettiamo? Poi, cioè, fantastico. No, tra l'altro, avrei Claudio da... No. Sandrino, hai due ragazzi a prezzo di uno? C'è un'offerta promozionale. Sì, sì. Dai, sì. Si può studiare, si può vedere. Ah, quindi lei cambia il suo fustino con due fustini. Sì, sì, è arrivato adesso il nostro fustino. Fustino. Ecco, questo campione gratuito, non in vendita. Parlavamo veramente di fustini. È arrivato. Abbiamo, sì. Ci abbiamo là. Ciao, chi sei? Fustino Dash, quello sì. Che amano tutte le casalinghe del mondo. No, no, no. Tutte del mondo, no. No, sì, stanno litigando per la cuffia. Litigando per la cuffia. Per... Scusa, dopo affrettarsi alla cassa. Ecco, io direi ciao Fustino. Ciao. È iniziata la processione. La processione sembra veramente di... Ma è la prima volta che si fa la radio con la porta aperta. La porta aperta. No? Sì, se va e viene, cambia. Riccardo si è condizionato. Chiudi la porta. Allora, abbiamo un altro ospite. Abbiamo un altro ospite. Ivana se n'è andata perché è quasi lì per trovare il principe azzurro. Facciamo un cambio? Secondo me è andata a prendere i due fustini. Esatto. Non ha accettato l'uno. Quindi ragazzi, scusate, ma il bicchierino per due cos'è rimasto? È rimasto mezzo vuoto. È rimasto mezzo vuoto. C'è talmente tanta gente che è qui a bere. Stasera veramente grande spolvero, grandi amici. Salutiamo tutte le persone che non ci caga nessuno. Nessuno. Fanno finta di non vederci, ecco, le due gnocche lì davanti. Ecco. Ma scusate, non possiamo spostare sulla radio a Viale Ceccarine? Che così almeno ci caga un cocuro. Oppure in spiaggia direttamente. A Papete. Diciamo. Ma abbiamo un ospite che parla e non parla vicino al microfono. Presentiamolo. Sentono anche se non parlo, ce l'ho voce. Pronto, chi sei? Mi sentono fin troppo. Ciao Riccardo. Sono arrivato da tanto, ma fa lo stesso. Sì. Allora, no, da tanto. Pensa, Sandrino, sì. Riccardo è arrivato, mi fa: io voglio subito la ventola. La ventola. Sì. È ovvio. Perché non la sventola? Non si io ho capito la sventola. La sventola non sarebbe una brutta idea. Non sarebbe una brutta idea, ma al momento mi sa la ventola. Per ora, ecco. Peccato, non si dicono queste cose. Neanche in salita, pubblico. Non si scalda neanche in salita. Appena comincia a ballare. È andato. Per l'evoluzione. Esatto. Ha lasciato qua il portafoglio, però. Pure? No, che portafoglio? Non mi porto dietro niente, perché è tutto pesante. No, noi parlavamo dell'amica che è andata via, ha lasciato qua il portafoglio. L'amica è ancora lì, dai. Speravamo nel numero di telefono, vero Ale? L'amica? Sì, l'amica. Senti, Riccardo. Tu è un po' che vieni, vero? No. Ti ho conosciuto nel 2016, non ho più smesso di venire. Ci siamo veramente amati al primo sguardo. L'emozione continua. Al primo pezzo. Esatto. Allora, il pezzo che ti ha fatto innamorare. Lo sapresti bene, ma non me lo metti quasi mai, ma va bene. Non mi ricordo il nome. Children. Bravissimo. Children, Robert Miles, vedi che non lo... Aspetta che lo cancello. Grazie. Era qui. C'erano molti altri volendo. È la tua fortuna che non so i titoli, perché sennò sai quante te ne farei mettere. Sai che mi mette in castigo Sandrino? A lui è tremendo. Perché ho capito, sei innamorato di te o della tua musica? No. Anche? Facciamo di tutti e due. Di tutti e due. Carisma, e si innamorano tutti. Sì. Perfetto. Non volevo alla lancia Prisma? Ho capito bene. Caro DJ Alex, perché veramente non si può togliere niente. Siamo tutti dei professionisti. Solo posso dire una cosa. No, ognuno è bravo nella propria sala. Nella propria sala. Questo è il peccato. È solito. Misteri. Ma non c'è neanche domenica scorsa? È l'infortunatura della domenica. Anche lui, perché là non sente niente. Allora, ricordiamo gli amici a casa che noi siamo. Ricordati di parlare nel microfono, siamo ripresi dalle webcam, siamo in diretta a YouTube. Però noi di fronte abbiamo tre vetrate, no? Che danno alla piazzetta. Quindi ogni tanto magari ci vedete gesticolare. Quindi qualcuno ci vede dalla fuori e dice: quei quattro pazzi, che cazzo stanno facendo? L'epilogo c'è. Peccato si attaccano ai vetri, dicono. E dicono che siamo pazzi. Più che altro, Riccardo sta guardando le rotule delle ragazze. Perdonami, scusate, i maschi mi capiranno. Cosa devo guardare, gli uomini? Allora, perché quello posso fa volergli bene, per carità, fa bella musica, bella persona, ma le donne sono le donne, vero? Ci mancherebbe, si sta sportando via il microfono. Quello se lo smonta se ne va, Tra l'altro sta entrando anche la coppia, Applauso alla coppia, ecco, finalmente, finalmente. Io lo volevo presentare, quella canzone è più ricco di Lumezzane, proprio. Ah, ecco, mi piace questa. David Guetta. Ah, David Guetta, è vero. Anche i ricchi piangono. E qui ci sono i ricchi e i poveri, quindi Mamma Maria. È partito. Parte il microfono. Che confusione, ragazzi. Sarà perché ti amo. Eh sì. Guarda che c'è. Ecco. Lasciala andare. Finché la barca va. È arrivato il bagnino. Ecco. Arriva sempre il bagnino. Deve iniziare a fare la musica, perché sennò il convento non va avanti. Eh sì. Io direi che possiamo lasciare il nostro programma. Sì, esatto. Ideato da un programma che va siamo gli sgoccioli. Siamo gli sgoccioli. Giustamente. Ho staccato il microfono. Abbiamo sentito. Si è sentito. Niente, stasera niente biscotti. Salutiamo il nostro Riccardo. Salutiamo tutti. Salutiamo e andiamo a lavorare. Andiamo a domenica prossima. Ecco, sarà un successo. Domenica prossima. Ciao da DJ Carlone e Sandrino. Ciao. Ciao. E Riccardo.